25, ya es Navidad. Todos juntos vamos a brindar. Por Ruanda, Etiopía, en Venezuela o en la India, y mueren niños. ¡Feliz Navidad! Navidades de hambre y dolor. Ha nacido el Hijo de Dios, el Mesías que nos guía, ofrece su filosofía. Nadie entiende al Hijo de Dios. Mi familia comienza a cantar. En el ambiente hay felicidad. En compañía vamos a olvidar la agonía de los pueblos donde no hay Navidad. ¡Cante, mis hermanos, todos juntos hacia el Vaticano! ¡Suelta, prenda, coño, que mueren niños de inanición! ¡Unde nuestro millonario con la fe de los cristianos! ¡Que utilizan a Jesús como el perpetuo salvador! Jesucristo era un tío normal, pacifista, intelectual. Siempre al lado de los pobres, defendiendo sus valores, siempre en contra del capital. Crucificado como un animal, defendiendo un ideal. El abuso de riqueza se convierte en la miseria más injusta de la humanidad. Mi familia comienza a cantar y en el ambiente hay felicidad. En compañía vamos a olvidar la agonía de los pueblos donde no hay Navidad. ¡Cantemos, hermanos, todos juntos hacia el Vaticano! ¡Suelta, prenda, coño, que mueren niños de inanición! ¡Un negocio millonario con la fe de los cristianos! ¡Que utilizan a Jesús como el perfecto salvador! Un negocio creo, el Vaticano es un imperio que devora con ingenio, predicando por la caridad. 25, ya es Navidad, todos juntos vamos a brindar por un revolucionario que intentó cambiar el mundo, el primer hippie de la humanidad. Mi familia comienza a cantar, en el ambiente hay felicidad. En compañía vamos a olvidar la agonía de los pueblos donde no hay Navidad. ¡Cantemos, hermanos, todos juntos hacia el Vaticano! ¡Suelta, prenda, coño, que mueren niños de inanición! ¡Un negocio millonario con la fe de los cristianos! ¡Que utilizan a Jesús como el perfecto salvador! ¡Cantemos, hermanos, todos juntos hacia el Vaticano! ¡Suelta, prenda, coño, que mueren niños de inanición! ¡Un negocio millonario con la fe de los cristianos! ¡Que utilizan a Jesús como el perfecto salvador! ¡La Navidad! ¡La Navidad es la sociedad de causa! ¡Mentira! ¡La Navidad es! Va bene, sta mangiando il panettone, quindi non è molto interessato. Avevamo detto rutto libero, in effetti. Allora, buonasera a tutti, Onda Rossa 87.9 della banda NFM di Roma e del Lazio, in una serata che assomiglia tanto a quelle che passavamo col Nano. Una roba un po' all night long. Come al solito non sappiamo che succede qui ai cursori. Le voci appaiono, scompaiono. No tengo ni un puto duro. Estoy en la puta calle. Me he quedado sin curtelo. No he pagado la hipoteca. Ma che è pronto? Mi sbaglio? Oh, vedi che c'era. Adesso sì. Dicevamo, c'erano pure un nome queste notti che si facevano, insomma, nei giorni esattamente. Beh, se tu te le io me lo ricordo. Certo, si chiamava uno speciale, era un next time, si chiamava speciale Babbo Nasale. Che tra l'altro ho saputo poi più anni, qualcuno si è pure rivendicato, noi stiamo parlando degli anni 80, ecco. Cioè stiamo parlando di era... 87, 88, sì, 89 forse. Esattamente. Ecco. Speciale Babbo Nasale. Più tardi fecero il speciale Babbo Nasale, un'altra radio romana che non andiamo a citare. Ovviamente. Babbo Nasale, che facevano se la sono rivendicata, perché poi l'ho sentito come coloro che hanno inventato il babbo nasale. Ecco, beh, non è vero. Ancora una volta Radio Onda Rossa, per, non ci interessano i diritti di primogenitura assolutamente, non ci piace il copyright, ma anche sì, ma no, il copyright non ci piace, no, il copyright, non ci piace avere diritti su alcunché, le idee sono fighe, però insomma non ci piace dirlo che noi negli anni 80 già si faceva lo speciale babbo nasale di Next Time. Vai, esatto. Allora c'è una voce, come dice, una voce bianca, con i capelli biondi, che si chiama Emiliano, che ha preparato una playlist, una scaletta, una scaletta, una mini scaletta, una mini scaletta, e tra l'altro un po' tempo fa c'era pure un capello tagliato, è abbastanza pancheggiante, anche abbastanza pancheggiante, adesso gli è un po' cresciuto, si nota di meno, insomma. Si dà da fare, si dà da fare. Allora bimbo, che mettiamo? War on the Streets dei Payback. Ma che cos'è questa canzone? È una canzone, è una canzone rock, un po' di più garage, bravo bravo, che ci spacca la testa tutte le volte che siamo in macchina, è vero? Sì. Oh, ma è la tua preferita forse? Sì. Benissimo, allora andiamo piano piano, con calma, vediamo se ci riusciamo. Sì, ma questa è sua trapartuarte però. Allora, correggiamo subito il tiro, eh? Vai! Olè! Questa era War on the Streets, i Payback. E la prossima che mettiamo qual è, Amy? Partuarte dei Cortatu. E perché? Perché ci ricorda i Paesi Baschi. Bravo, andiamo allora. È pure dal vivo, attenzione. Yeah, it's fine. squadra partuarte. Loro erano i Cortatu, peraltro questa era dal vivo ed era all'interno di una compilation che è stata fatta proprio per Roberto, che si intitolava Per Roberto. Linea di qua. Ecco. Allora, innanzitutto, così, questa qui, daje, perché qui insomma siamo tiratissimi. Chi mette i dischi ha bisogno di essere incoraggiato, quindi 06491750, e insomma è un invito bello palese. È un momento straordinario quindi vedete di partecipare. E tra l'altro c'è pure un'altra notizuola così che è importante dare in questo giorno così di antinatale. No, perché questo 25 dicembre niente, qualcuno si è accorto insomma di dover dare un segnale. Leggiamo questa notizia dall'ANSA che nel cammino di Santiago causa un fulmine. È stato bruciato totalmente il santuario di Muxia, quindi nel giorno di Natale probabilmente Thor, risentito, ha dovuto dare un segnale. Evidentemente sì, insomma. Allora, per continuare con questo momento straordinario, il biondo, la voce bianca, bionda, annuncia il terzo brano, che Vultures dei degli Offspring, perfetto. Che rompo comunque le scatole a papà, ma la metto più raramente. Ma qui mo abbiamo dichiarato però il grado di parentela, attenzione, eh. Dai, il maestro in sottofondo qui è dura, eh. Il paragone è impietoso, ma due trilli, e quindi direi che parte da capo, va bene, va. La senti nella cuffia? Seems Bene, loro erano gli Offspring. Ricordatevi, il cucchiaio non esiste. E questa era una citazione di lusso. E visto che il cucchiaio non esiste, ma che la citazione era in ambiente cinematografico, allora il biondo, la voce bianca, qui ha finito la sua selezione per il momento, anche se avrebbe scelto tanti più brani, ma ci diamo un leggero taglio e scegliamo appunto in ambiente cinematografico un evento musicale, ma non solo, che di fatto non succede quasi mai. Diciamo tre persone straordinarie, un regista, un musicista e un grande attore, che fanno una cosa straordinariamente bella e importante, diciamo un'opera artistica direi colossale, insomma una fusione tra immagini e suoni di uno spettacolo unico. Parliamo di Jim Jarmusch, di Neil Young e uno straordinario Johnny Depp. Quindi una cosa che non passa quasi mai in radio, ma è una chitarra, diciamo così, esasperata. Ma anche perché credo che sia un'unica traccia di tipo la colonna sonora, un'unica traccia di tutta la durata del film, perché quasi, il film praticamente non è mai parlato. Quasi tutto è non è una colonna sonora in realtà, è il sonoro del film, il disco. Stai parlando di Dead Man, no? Dead Man, sì, assolutamente. Esatto. Diciamo che il brano, esiste un brano che è quello che stiamo per ascoltare, sì, che però torna in maniera ossessiva, certo, con questa chitarra che effettivamente è di una ridondanza unica, però diciamo che questo ritornello laconico all'interno, diciamo, di alcuni cicli di immagini di quel film è insomma una roba devastante, direi. Quindi l'ho risentita per caso da poco e quindi direi di cominciare da questa. Thank you. Ebbene, lo ricorderete senz'altro questa ritmica della chitarra, diciamo così, ossessiva, che un po', almeno a me, lasciava immaginare il cuore di questo indiano che lentamente si spegneva a bordo di questa canoa che prendeva il largo, peraltro incendiata con una freccia da riva. Cioè, una scena spettacolare, veramente indimenticabile, come indimenticabile direi le note di questo brano bellissimo di Neil Young. Non c'entra molto quello che ascoltate, rimaniamo leggermente in tema. No, non è neanche questo, ma diciamo che la vecchiaia è brutta perché le tecnologie troppo moderne. No, il problema non sono le tecnologie, è il dito che, diciamo, è abbastanza grande per le righe della playlist, ma sei uno di quelli che c'ha 5 alluci per mano, insomma. Beh, no, nel senso, non faccio il muratore, però nonostante questo, insomma, non sciacchiappo stasera. Ma insomma, comunque sono partiti Whiskey Trail, io non vorrei adesso. Allora, diciamo quasi un presagio, perché invece quello che volevo farvi ascoltare era questo. No, è proprio una disperazione, non c'è niente da fare. Ma allora forse c'è qualche link sbagliato, però. Se ci dai il microfono, intanto diciamo qualcosa. Ce l'abbiamo? Non mi sento più cuffia, ce l'abbiamo. Ce l'hai. Allora, no, quello che volevamo dire era senz'altro che ringraziavamo innanzitutto il Teatro Valle. Credo che sia stato già fatto anche pubblicamente qui dai microfoni della radio. Comunque, il 23, lunedì scorso, appunto, serata al Teatro Valle occupato, un regalo a Radio Onda Rossa. Una cosa inaspettata, veramente un regalo per i redattori e le redattrici della radio, per coloro che appunto nella radio ci hanno messo un pezzo della loro vita, dei loro corpi, delle loro energie, delle loro intelligenze, perché appunto è stata una serata che ha espresso sicuramente anche la radio, un pezzo della radio per com'è, per chi la vede da fuori e per chi la vive da dentro. Tra l'altro, con una diciamo, vogliamo chiamarla così, ma assolutamente in maniera amichevole, una fauna umana di umanità molto bella, molto interessante, molto composita, dove veramente nel Teatro Valle, in questo luogo appunto al centro di Roma, che in qualche maniera è vissuto e rappresenta un po' quello che vorremmo potrebbe essere appunto uno sdoganamento, un sbottonamento della cultura, che sia capace realmente di aprirsi, di unire, di contaminarsi. E appunto questo ambito umano estremamente contaminato, dove c'erano appunto da... Allora, mo è partito il salmo praticamente. Sì, no, sì, no, no, è perché me lo tenevo. Me lo tenevo perché era una roba che ci ho pensato, insomma, di dirla. Che una umanità che comprendeva appunto da, non dico il punk a bestia, forse qualcuno c'era. Ma i cani c'erano anche? I cani c'erano?

They say you can get used to war. That doesn't mean that the war isn't done. The fish need the sea to survive, just like your people need you. And the death squad can only get through to them if first they can get through to you. No time for love if they come. No time to show tears if her fears in the morning. No time for goodbye, no time to ask why. And the sound of the sirens, the cry of the morn. Yes, the sound of the sirens, the cry of the morn. Ebbene, questa era una bellissima ballata di Christy Moore dell'Irlanda che lotta, che ha sempre lottato e più o meno continua a farlo. Ci ricordava che il pianto del mattino a Belfast sono le sirene della polizia. Non c'è tempo per amare, non c'è tempo per mostrare paura, lacrime, perché arrivano al mattino, arrivano presto e non ci si può chiedere perché non c'è tempo per dire arrivederci. Bene, tiriamo di nuovo su il, come dire, il ritmo. Sono stati nominati poc'anzi e quindi noi li passiamo. Freedom is a state of mind. Freedom is a state of mind. For the police, loro sono i Corporate Avenger, questa è Radio Onda Rossa. The Police, loro erano i Corporate Avenger. Prossimi due brani assolutamente per il piccoletto della strada, L'amore nostro, Four Skin Erano i Four Skins dal vivo, ICV, ovvero AGAB, quello che adesso va molto di moda, All Caps or Bastards. Sin. Drinking and driving. E questo ci riguarda proprio da vicino, Non è forse così bello bere e buttarsi al volante? Looking back, I'm another one, drinking and driving, it's so much fun. Straordinario. Ebbene, finisce qui questa mini scaletta, se non con un ultimo brano della voce bianca che ha scelto per... Sweet Dreams. Ma per chi è? Per Francesca. Per Francesca. E chi è che canta questa Sweet Dreams? Che versione è? Ce ne stanno 5.000 di Sweet Dreams. La canta Marilyn Manson. Benissimo, benissimo. Thank you. Allora approfittiamo intanto per salutare, voce bianca, di almeno un ciao, buonasera a tutti, che ne so, di qualcosa. Ciao, buonasera a tutti. Io me ne vado a dormire, avrebbe dovuto. Me ne vado a dormire. Esatto, perché esatto. Mi sembra proprio mi un'ora sembra proprio... Oh, che c'ho, che c'ho il pappagallo? Che c'è il pappagallo? Well, and the seven seas. Allora, noi ce ne andiamo a dormire perché la voce bianca è stanca. Come non è vero che c'hai gli occhi a palla, c'hai? Sono stanco. Ti sembra, ma in realtà lo sei, te lo dico io, e se lo dico io è così. Quindi uno speciale Babbo Natale abbastanza, come dire, più corto, almeno per quanto ci riguarda. Erano tirate da quasi 12 ore all'epoca. E, benissimo, quindi appuntamento alla prossima volta, la quando capita. Il microfono di nuovo al professore. E questa però mi sa che bisogna metterla da capo, perché per gli amanti, insomma, è stato veramente una tragedia. Quindi, Sweet Dreams, Marilyn Manson, arrivederci. Everybody's looking for something.